America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. By most measures, America has rarely been stronger relative to the rest of the world. Barack Obama, il presidente americano, ieri, lo avete sentito, ha parlato all'Accademia Militare di West Point, la più antica, la più grande accademia americana degli Stati Uniti, la più importante sicuramente, e ha pronunciato un discorso di politica estera che era molto atteso. In questo passaggio che vi ho fatto ascoltare, il presidente dice: sotto molti punti di vista, l'America non è mai stata così forte come ora rispetto al resto del mondo. Coloro che sostengono che l'America sia in declino o che la sua leadership si stia sgretolando interpretano male la storia, oppure hanno semplicemente degli interessi politici. La forza militare americana resta senza pari nel mondo. Le minacce con cui gli Stati Uniti si confrontano oggi sono minime rispetto ai tempi della Guerra Fredda. Ecco, un Barack Obama orgoglioso, un Barack Obama che rivendica il ruolo degli Stati Uniti, un Barack Obama che risponde alle critiche in arrivo da ogni parte del mondo alla sua presidenza, una presidenza giudicata debole, giudicata in difensiva, in retrovia rispetto ad esempio alla presidenza di Vladimir Putin, una presidenza aggressiva. E quella differenza di cui abbiamo parlato tempo fa, la differenza tra il win-win, tra quell'approccio win-win, l'approccio di Obama in cui facciamo le cose insieme così vinciamo tutti e due, e invece l'approccio zero-sum game di Vladimir Putin: uno soltanto vince, o vinco io e perdi tu, o se no io sarò finito. Ecco, questa differenza di filosofia chiaramente è emersa. Barack Obama ha cercato di conciliare sul piano politico e sul piano morale la posizione degli Stati Uniti. Ecco, c'è tuttavia un punto che vorrei sottolineare, perché secondo me il discorso è stato sicuramente un discorso molto buono, però occorre distinguere fra questo respiro globale del discorso del presidente americano sulla politica estera americana nel mondo, appunto, e il suo imminente viaggio in Europa. Perché? Perché il presidente ieri, e questo credo che sia importante dirlo, non ha mai tenuto conto di uno sviluppo imprevisto, credo, per la Casa Bianca. Questo discorso, abbiamo saputo, il presidente lo ha preparato nel corso di molte settimane, lavorando in brainstorming con i suoi consiglieri di politica estera. E dunque, di che cosa non ha tenuto conto? Qual è lo sviluppo imprevisto? È questo rigurgito nazionalista, populista, che si è manifestato in Europa, dalla Francia all'Ungheria, dalla Grecia alla Gran Bretagna. Ecco, è uno sviluppo di cui Obama non potrà non tenere conto durante il suo viaggio in Europa, perché qualche cosa è cambiato. Il presidente non ha tenuto conto neanche di un altro sviluppo, di un altro risultato imprevisto. Ecco, forse sarebbe troppo aspettarsi che si occupasse di un risultato politico in un singolo paese, ma mi riferisco al risultato italiano, perché c'è stato davvero un moto d'orgoglio italiano che in controtendenza ha votato con una maggioranza storica per le politiche europee, per le politiche transatlantiche, che dunque in che cosa si traducono? In un rafforzamento del ruolo e della percezione del nostro paese rispetto agli altri paesi europei nei rapporti con Washington. Ecco, questo è un altro sviluppo non secondario di cui dovremo tener conto nel corso del viaggio del presidente americano in Europa. Ve lo ricordo, sarà prima in Polonia, e quindi ci sarà un forte messaggio sull'Ucraina, si parlerà dei ricordi orribili della Guerra Fredda, mai tornare indietro, però dovrà anche parlare della necessità che l'Europa guardi in avanti e non guardi indietro, non guardi a quei rigurgiti nazionalisti, appunto, che erano poi alla radice di quella che fu la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Sul piano simbolico tutto si tiene, perché e poi da lì Barack Obama andrà a Bruxelles per la seconda volta in un anno. Pensate, dopo non esserci mai stato, il presidente americano visita Bruxelles. Ha deciso di avere il G7 senza la Russia, quindi un altro incontro storico, e proprio in quella che è la capitale formale dell'Unione Europea. Dunque porta un messaggio forte per l'Europa, in un'Europa che però questo messaggio lo ha voluto respingere. La sfida per Obama sarà importante perché dovrà restituire sicurezza a quelli che invece hanno votato a favore per l'Europa. Infine, per chiudere questo viaggio che sul piano simbolico, vi dicevo, sarà evocativo di molte delle memorie del passato che non vanno dimenticate, dunque poteva sembrare come così la solita ricorrenza, basta, ne abbiamo viste mille, ma ci sarà la tappa in Normandia a Rouen per la celebrazione del 70° anniversario dello sbarco. Sarà un evento commovente perché ci saranno ancora alcuni dei vecchi veterani, sono sempre meno, sono pochissimi, ma ci saranno e saranno lì testimoni di quella che è stata la grande tragedia europea per colpa dei nazionalismi, per colpa dei populismi, per aver ignorato i messaggi chiave della democrazia. Obama non potrà ignorare questo perché dietro questo voto nazionalista, populista, c'è anche un sentimento anti-americano, un sentimento anti-americano che sappiamo essere diffuso in certi ambienti politici europei. Però questa volta c'è una differenza di cui Washington non potrà non tenere conto, e cioè che questo sentimento, per la prima volta, in un contesto di voto che non è di politica nazionale, ma è riuscito ad ottenere una maggioranza. Ma sentiamo, parlando invece di approccio globale, quali sono stati i punti chiave centrali del presidente Obama. When issues of global concern do not pose a direct threat to the United States, in such circumstances we should not go it alone. Ecco, per controbattere a chi accusa l'America di declino e la sua presidenza di essere inefficace, Obama ha spiegato che le strategie di equilibrio della sua amministrazione sono strategie che cercano e cercheranno sempre di più una posizione di metà strada fra isolazionismo e interventismo eccessivo. Ecco, Barack Obama ha detto: non sottovalutateci, perché noi sappiamo quello che stiamo facendo, stiamo percorrendo una nuova strada in un mondo sicuramente difficile. E poi un attacco a George W. Bush. The strategy that involves invading every country that harbors terrorist networks is naive and unsustainable. Una strategia che comporta l'invasione di ogni stato che dà rifugio ai terroristi è ingenua e insostenibile. Quindi niente più invasioni di questo genere, ma il terrorismo resta comunque sulla linea del fuoco degli Stati Uniti di Barack Obama. Ha annunciato il presidente lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per combattere il terrorismo strisciante, quel terrorismo fatto dalle mille schegge impazzite di Al-Qaeda che si sono propagate un po' dappertutto, dalla Siria all'Africa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla, la canzone di oggi, a Lenny Kravitz, che ha compiuto questa settimana 50 anni. Lenny Kravitz, Fly Away. Just like a dragonfly, I fly above the trees, over the seas, and all the greens, to anywhere I please. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.